Parliamo di antifascismo perché il 25 luglio 1943, ovvero 76 anni fa, cadde il fascismo e per festeggiare questo anniversario, giovedì 25 luglio, l'ANPI Bologna organizza diverse iniziative sul territorio. Noi siamo al telefono con la presidente dell'ANPI Bologna, Anna Cocchi, che saluto. Salve. Grazie a voi, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Allora, quali sono i progetti che avete per il 25 luglio? Guardi, i progetti sono tantissimi, il territorio sta rispondendo ripetendo le iniziative là dove sono nate tanti anni fa, come Sasso Marconi in particolare, ma così sarà Medicina, ma così sarà Castenaso, ma così sarà Terre d'Acqua e per il secondo anno sarà Bologna. Bologna quest'anno farà una iniziativa molto più ricca rispetto a quella dell'anno passato, quindi invitiamo tutti coloro che si riconoscono nei valori dell'antifascismo a partecipare a queste iniziative e soprattutto a questi messaggi che sono messaggi soprattutto per noi di pace, ma soprattutto sono messaggi che vogliono ricordare l'impegno, il sacrificio che hanno tante persone, tanti uomini e tante donne hanno messo dal 43 al 45 in particolare per dare a noi quella libertà di cui oggi siamo davvero i padroni della libertà. Speriamo che tutto questo venga continuamente rafforzato. Tra le varie iniziative ho letto che ci sarà una pasta asciutta antifascista. Volevo chiederle da cosa nasce questa idea? Nacque ovviamente da Papa Cervi, che probabilmente era fiducioso che quel 25 aprile davvero fosse finita, invece purtroppo per la sua famiglia cominciò davvero una tragedia immane. Papa Cervi, la famiglia Cervi perdette i suoi 7 figli maschi, come sicuramente tanti sapranno già. Era un momento in cui il Papa Cervi voleva festeggiare con la comunità tutta, quindi con il suo paese e con tutti i cittadini di quel tempo, quella festa. Si racconta che parteciparono non solo coloro che si riconoscevano nei valori dell'antifascismo, ma parteciparono anche altre persone. Una persona in particolare che andò con una camicia nera, Papa Cervi disse: "Ti potevi cambiare questa camicia?" E quello rispose: "Ho solo questa." Quelli erano quei tempi, oggi non è più così per tanti, non per tutti. La ragione per la quale siamo qui a festeggiare questo 25 luglio è una ragione in più, insomma, per rafforzare il pensiero di Papa Cervi. È vero che nel Modenese invece hanno vietato questa iniziativa, perché? Ma ho letto che un comune in particolare, insomma, probabilmente un sindaco che è molto spaventato dall'antifascismo. Penso che sia non sufficientemente informato di che cosa vuol dire antifascismo. Vorrei che pensasse cosa vuol dire antifascismo, cosa vuol dire antimafia, cosa vuol dire anticorruzione. Vorrei che questa persona riflettesse e che ripensasse alla sciocchezza che ha commesso in questi giorni. Spero che si ravveda. Sulla scia di questo commento non posso non farle una domanda sull'attualità politica e sociale di questo paese. Cosa sta succedendo secondo lei in Italia? Sì, stiamo sfidando i valori per i quali la resistenza è nata e soprattutto ha combattuto. Credo che oggi bisogna fare ancora più resistenza di allora, la dobbiamo fare con la cultura, con la memoria, con il nostro impegno quotidiano a ribellarci a ciò che accade e che vediamo intorno a noi e dobbiamo soprattutto combattere l'indifferenza. L'indifferenza la si combatte con la conoscenza soprattutto e credo che da qui potremo solo uscire da un periodo buio come stiamo attraversando. Secondo lei è un periodo di passaggio o c'è il rischio che si torni? Vorrei che fosse un periodo di passaggio, ma non lo so. Bologna ha comunque una gloriosa storia per quanto riguarda l'antifascismo, la resistenza. E ricorderete qualche episodio in particolare, il 25? Sì, il 25 come sempre si ricorda nel cortile di Palazzo d'Accursio la presa, insomma, no, del palazzo e quindi sarà un momento di rievocazione storica alla quale poi seguirà l'iniziativa di carattere più festosa che è quella della pasta asciutta. D'accordo, io la ringrazio molto. Grazie, grazie mille.